è un percorso nato da un'assemblea di compagni di Napoli, dell'ex OPG che hanno lanciato a Roma, dopo quello che è stato il fallimento del teatro Brancaccio, hanno lanciato questa assemblea con l'esigenza di costruire una lista popolare alle prossime elezioni. Noi siamo qui oggi per lanciare questo percorso ufficialmente alla città e per invitare tutti all'assemblea di domani, che si terrà alle 19:30 a Venti Pietre. Questo è un percorso che stiamo ancora definendo, però si pone già nell'ottica di non rappresentare la classica formazione di sinistra, ma cerca di unire quelle che sono le vertenze, le conflittualità sui territori e di dare a queste vertenze, a queste conflittualità, una prospettiva politica nazionale. Cioè, c'è l'esigenza di rappresentare quei ceti popolari che sono rimasti fuori dalle politiche di non redistribuzione di tutti questi governi, quindi abbiamo la necessità di costruire questa piattaforma, questa lista. In una prima fase si era cercato di fare un percorso unitario, poi dopo a un certo punto qualcosa è saltato, e perché non vi riconoscete in liberi uguali? Perché Liberi Uguali è sicuramente una formazione che guarda il centro-sinistra, lo guardano i suoi esponenti, i soggetti che compongono Liberi Uguali siedono tutt'oggi in giunte regionali, vedi l'Emilia-Romagna, accanto al Partito Democratico, e quindi quello è un progetto che dal punto di vista anche proprio tattico non è interessante. Poi abbiamo visto in questi anni cosa ha portato la retorica dell'Ulivo, del centro-sinistra, rispetto ai ceti popolari. Non ci sembra che ci sia un avanzamento concreto delle prospettive di vita delle classi popolari, dei ceti popolari, e di qui quindi la nostra diversità rispetto diciamo, alla lista di Grasso che piove un po' dall'alto e che non ha coinvolto nessuno. Va detto anche, per correttezza, che non tutti quelli che oggi costruiscono potere al popolo erano interessati al percorso, diciamo, del Brancaccio, che poi spesso si fa anche un po' di confusione rispetto a Liberi Uguali. Di quel percorso lì ci sono state molte critiche e noi ne abbiamo fatte diverse. Chiaramente ci rivolgiamo a quelle singolarità che non hanno voglia di rimanere dentro il percorso di Grasso. Siamo ancora alla fase della conta o, come dire, siete già convinti di riuscire poi a presentarvi alle elezioni? Noi siamo convinti perché c'è la volontà. Ci sono delle forze politiche sia organizzate che delle singolarità che partecipano a questa lista e hanno la capacità e l'intelligenza per portare avanti una buona campagna elettorale, partendo soprattutto dalle firme, essendo già a gennaio pronti per fare questo tipo di percorso. Tutti i territori stanno nascendo percorsi di questo tipo? Sì, assolutamente. Anche in Emilia-Romagna, mi viene in mente Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Modena, insomma, le assemblee si stanno costituendo rapidamente in tutta Italia. Sicuramente Bologna è un'assemblea importante perché poi si troverà anche a relazionarsi con tutta l'Emilia-Romagna, un'esperienza metropolitana importante dove ci sono delle realtà che lavorano coerentemente sul territorio rispetto alle conflittualità che contribuiranno sicuramente anche a definire nazionalmente il profilo di questa lista. Ecco, veniamo da anni di retorica del voto utile. La prima accusa che probabilmente vi sarà fatta è quella di essere una lista di disturbo che favorisce l'avanzata della destra. L'esigenza di creare questa lista è perché proprio in questi anni la destra ha conquistato larghi segmenti politici e noi crediamo che la principale destra di questo paese che porta le politiche regressive dell'Unione Europea sia quella del Partito Democratico, quindi non siamo attirati dalle sirene del voto utile proprio perché contestiamo chi parla di voto utile, perché chi parla di voto utile in questo paese oggi è responsabile di tutte le politiche neoliberiste, recessive e che quindi noi consideriamo profondamente di destra degli ultimi anni. Quali realtà, tu sei di Rifondazione, Sì. quali realtà ne fanno parte di questo percorso? Ha aderito al percorso di Eurostop, un percorso importante che è nato negli ultimi anni rispetto alla questione della critica all'Unione Europea. Ha aderito il Partito Comunista Italiano, che sarà presente insieme anche a Eurostop dentro questo percorso. Hanno aderito diversi soggetti sociali che sono riconducibili al volontariato e alla solidarietà, diciamo, attiva. Penso ad esempio a tutto quel percorso nato dentro le brigate di solidarietà attiva anche qui in Emilia-Romagna, come ricorderai rispetto al terremoto nella Bassa Modenese, eccetera. Ci sono diversi soggetti appunto che provengono da quell'esperienza lì e soggetti nuovi che sono, diciamo, si sono affacciati adesso alla ricerca di una posizione politica. Quello che mi sento di dire è che è largamente una lista che generazionalmente si abbassa. D'età. Questa è una cosa che noi stiamo vedendo rispetto a chi stiamo coinvolgendo e rispetto a quello che un po' anche dai social emerge. È una lista che vede importanti forze nuove e delle organizzazioni che comunque sul territorio fanno un lavoro politico che credo importante. Per quanto riguarda il programma? Il programma in definizione, c'è un manifesto per ora. È un programma che parla di lavoro, naturalmente, ma che non ne parla semplicemente nella logica del diritto al lavoro, ma parla proprio di quello che deve essere una pianificazione del lavoro in questo paese, un ritorno del ruolo pubblico nell'economia e chiaramente ridisegnare un'Italia di pace, un'Italia neutrale, un'Italia che rispetto alle questioni internazionali non è più succube delle decisioni prese a Bruxelles o prese magari a Washington.